si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno, 8 e 36 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Allora, andiamo a cominciare questa mattina con anche un occhio naturalmente e tutti e due puntati su New York. Vedremo se arriveranno degli aggiornamenti, delle notizie, daremo eventualmente linea alla redazione per vedere se ci sono sviluppi su quello che è accaduto a New York. Ci sono una trentina di feriti per questo ordigno che è esploso in città. 800 24 00 24, vi aspettiamo naturalmente anche oggi, cari ascoltatori, e come ogni domenica mattina, anche se siamo solo al secondo weekend di ripartenza, cosa facciamo? Cerchiamo un personaggio, un super personaggio della settimana, quindi cominciate legato a una notizia, esatto. Il quale daremo degli indizi e vabbè, il primo indizio che andiamo a dare è questo: il nostro personaggio questa settimana ha avuto un contrasto e quindi immaginate, pensate, qualcuno che ha avuto appunto perfetto un contrasto, insomma, e quindi non essere troppo buono, che sennò poi precisi sempre di più. No, non bisogna precisare troppo. Indizio. E chi, il primo che indovina il personaggio, si porta a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale a Milano. 800 24 00 24. Adesso iniziamo, facciamo come sempre un giro delle notizie della settimana e poi a caccia di buone pratiche. La morte è sempre una brutta notizia e quindi una preghiera e il cordoglio per i suoi familiari. Politicamente parlando, uno dei traditori dell'Italia e degli italiani, alla pari di Napolitano, di Prodi e di Monti. Quindi il cordoglio è doveroso. Politicamente parlando, si porta sulla coscienza il disastro che hanno sulle spalle 50 milioni di italiani. Ciampi era un grande statista, un grande uomo politico, un grande uomo, un grande italiano, e qualsiasi strumentalizzazione, anche se sotto il profilo politico, sulla sua morte non può che essere considerata alla stregua di un'azione da parte di uno sciacallo. E allora siamo partiti così con la notizia che ci ha un po' addolorato tutti del... caro Carlo Azeglio Ciampi, 96 anni, a dicembre avrebbe avuto, umanamente parlando, caro Carlo Azeglio Ciampi. Politicamente parlando era un tecnico, ognuno si è fatto l'idea che vuole naturalmente. Salvini ha rotto il coro dell'unanimità e ha detto, coerentemente col suo pensiero, parlato male di Ciampi in quanto ministro del tesoro quando l'Italia fece il suo ingresso nell'euro. Bisogna dire però una cosa. Mentre comunque sì. Salvini era al governo, giusto? Insomma, eravamo in quegli anni lì. Appunto. Il fatto è questo, lo ha ricordato Prodi in questi giorni. Ciampi, da ministro del tesoro, chiese che ci fossero delle commissioni provinciali per il controllo dei prezzi in quei mesi in cui sarebbe entrato in vigore l'euro, ma lui a quel punto era già Presidente della Repubblica, non aveva più incarichi di governo, e anche che ci fosse il cartellino doppio dei prezzi per sei mesi. E questo non avvenne, ma non era colpa di Ciampi, era colpa di chi era al governo in effetti in quel momento lì. Prima uno, poi l'altro. Poi ho detto Salvini, diciamo la Lega era al governo insieme a Berlusconi nel 94, perché poi dopo in realtà la Lega si staccò, quindi prima che arrivino delle precisazioni che dicono proprio in quell'anno lì non c'era lui. Certo. Allora, in tema di mobilità urbana non c'è solo i Fori Imperiali a Roma, Milano con la sua zona dove c'è il ticket d'ingresso in città e dove c'è tanto bike sharing, car sharing, eccetera. Si muovono anche le città del sud, anche se può sembrare strano che ci sia problemi di traffico a Palermo e viene subito in mente qualche cosa. Allora, invece no, ecco, sentiamo intanto la notizia. Sentiamo questo servizio su un sito che parla di Palermo. Sentiamo. La ZTL scatterà il 10 ottobre, ma i pass sono in vendita già da oggi. Sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Si potrà circolare liberamente soltanto la domenica e nei giorni festivi. Il pass per i residenti costerà tra gli 80 e i 90 euro. Potranno ottenere il pass anche i non residenti per motivi di salute, lavoro o studio. In questo caso costerà 100 euro. Tutti gli altri potranno accedere alla zona ZTL con un pass giornaliero al costo di 5 euro. Cittadini di Palermo, che cosa ne pensate di questa novità? La ZTL. Cittadini di altre città, come per esempio Milano, dove già si sperimenta da un po', se volete fare il punto su questa, che è una buona pratica, perché insomma si cerca di sfoltire il traffico in città, però poi bisogna vedere come viene fatto, perché ci sono sempre le lamentele, i residenti, quelli che lavorano e tante situazioni da capire. Stai punzecchiando gli ascoltatori, e c'è proprio, anche da capire se in effetti il traffico sia o no un problema a Palermo. Ma dove possiamo fare e non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. E nella tezza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico, troppe macchine. Scusi se l'ho messa in mezzo a questo traffico, davvero, rimango un minuto per salutare Maria e vado in albergo. No, anzi è un piacere. Tonight, so I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected, now nothing's how it used to be, don't second guess it. Tracking all this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, it's so electric. Me, yeah, slow, skip a beat and move in my body, yeah, slow. E va bene, con questo slow di Kylie Minogue, andiamo tutti piano piano in città. Allora, in questi giorni viene presentato il club delle città che vanno piano in centro, il club Città 30 e Lodere. Con noi l'assessore alla mobilità del comune di Pavia, che ne è il coordinatore, Davide Lazzari, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Alice. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, noi siamo molto contenti che ci sia questa presa di coscienza collettiva delle città che decidono di salvaguardare soprattutto chi? I pedoni e i ciclisti, ma soprattutto i pedoni, perché partiamo da qua, dal dato, no, assessore? Sì. Ricordiamolo agli automobilisti che magari possono storcere la bocca perché andare piano piano. Quelli che stanno rallentando in questo momento, che sono proprio a Milano e stanno andando a 33 all'ora e dicono porca misera, è troppo veloce anche 33 all'ora? Ricordiamoci che il problema delle città è che ci sono ancora vittime, feriti e morti ogni anno tra i pedoni. Assolutamente, il dato della mia città è abbastanza emblematico. È non tanto la velocità, è la guida distratti, che oggi con smartphone e tutto quello che ne consegue la gente guida distratta. Nella mia città ci sono quasi un investimento ogni 3 giorni sulle strisce pedonali nella fascia diurna e quindi durante il giorno, e questo causa un esborso al sistema sanitario di 44 milioni di euro solo nella mia città. Ogni 3 giorni un investimento sulle strisce pedonali? Sì, ogni 3 giorni sulle strisce pedonali, perché durante la fascia diurna, quindi tra le 9 di mattina e le 17, quindi col chiaro eccetera, dentro al confine urbano della città. Questo perché molto spesso si guida distratti e andando veloce. E questo porta a una spesa di 44 milioni di euro per la sanità pubblica, perché il calcolo già è incredibile, è finalmente un solo calcolo per preciso. La città di Pavia, perché noi abbiamo calcolato che c'è un indice di lesività molto alto, sopra i 140, quindi vuol dire che quando uno viene investito, solitamente questo acciacco se lo porta avanti per qualche mese. Queste sono tutte tutte spese che il sistema sanitario si deve accollare. Non sono tasse dirette dei cittadini sul comune, ma sono tasse che noi paghiamo direttamente. Intanto complimenti, perché è la prima volta che sento questo, che credo che sia qualcuno ha fatto una stima. Sì, che ci si chiede spessissimo, che uno dice: ma quanto incide poi? Quanto incidono gli incidenti anche di un piccolo centro? Quanto saranno i costi per la sanità pubblica? Perché diventa anche interessante, perché se uno riesce a risparmiare quelli, magari si sbloccano delle risorse per fare dell'altro. Ed è doppiamente interessante perché naturalmente sono costi che non sono a carico del sindaco, ma vanno a carico della sanità e quindi dello Stato. Il sindaco potrebbe anche dire: che me frega a me, perché non è un problema mio. E invece, se i conti si fanno complessivamente, a pagare sempre pantalone, cioè noi, e allora ci interessa. Giusto. E come no, e interessa certo, anche il sindaco. Perché poi i comuni trasferiscono delle risorse allo Stato, e quindi è sempre comunque vada un circolo virtuoso. Ma questo è proprio una presa di coscienza, soprattutto anche degli assessori delle città medio piccole, perché le città grandi vengono sempre, insomma, citate. E invece noi, quando andiamo a vedere anche quante città sforano il PM10 per più giorni durante l'anno, tra le prime 10 posizioni almeno 6 sono città medio piccole. Allora, siamo partiti, un costo sanitario eccessivo. Siamo partiti dal problema, dal dato di fondo. Adesso vediamo di capire se le zone a 30, le zone pedonali, le piste ciclabili, la mobilità nuova che si cerca di costruire nelle città del Club 30 e Lode è la risposta a questo problema. Intanto però sentiamo se si va a 30 su strade e autostrade questa mattina. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora cari ascoltatori, intanto all'800 24 00 24 vi ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana, è uno che, questo è il primo indizio che andiamo a dare, ha avuto un contrasto, quindi pensate tra qualcuno che nell'ultima settimana ha avuto appunto un contrasto e chiamateci 800 24 00 24. Con noi l'assessore alla mobilità del Comune di Pavia, coordinatore del Club Città 30 e Lode, che nasce proprio in questi giorni, le città che decidono di adottare zone dove si va a 30 all'ora, no? Quante sono le città che aderiscono? Ad oggi siamo partiti, siamo una ventina, siamo quasi 20, ma il club si sta allargando notevolmente. Non è solo rivolto alle zone 30 alternative alle pedonali, ma anche allo studio di una nuova mobilità. Riuscire a creare dei sistemi efficaci e efficienti per poter dare al cittadino un'alternativa all'utilizzo della macchina privata. Per esempio a Pavia che cosa avete studiato, immaginato? Come ve la state allora, cavando? In quest'ultimo anno noi abbiamo fatto delle rilevazioni, perché non abbiamo più studiato il traffico, ma abbiamo studiato gli spostamenti delle persone e quali sono le loro necessità. La città viene divisa antropologicamente per punti, diciamo, di interesse, dove ci sono i punti attrattori, ospedali, stazioni, centro storico, negozi, università, scuole, eccetera. E poi viene fatto lo studio sulle persone, facendo dei questionari insieme anche agli altri enti, mettendo giù anche dei sistemi radar che per più di 50.000 ore hanno rilevato tutti i flussi delle macchine, suddividendo macchine, pedoni, ciclisti, autobus e pulmini, e vengono fuori dei dati che sono incredibili, e capiamo perché siamo la seconda città col PM10 più alto, che sforiamo per più giorni il PM10 durante l'anno, perché noi abbiamo quasi 1880 macchine ora che fanno meno di 2 km e abbiamo 3200 macchine ora che fanno meno di 3 km. Questo vuol dire che sono distanze che solitamente in una città metropolitana viene considerata quasi pedonale, se non assolutamente ciclabile, insomma. Noi capiamo che questo sbagliato metodo di spostarsi delle persone, che molto, molto spesso lo fanno perché pensano di essere più comodi, quando invece magari costa molto di più, potrebbe essere fatto con un mezzo alternativo che non metterebbe in difficoltà tutto il resto. Se posso dire una cosa, perché la dici così bene che sembra normale, ma in realtà lo spostamento di ottica da osservare e studiare il traffico, di smettere, diciamo, di studiare il traffico, ma iniziare a studiare gli spostamenti, è un cambio di prospettiva fondamentale, perché appunto non è prendere il dato di fatto e dire come posso incanalare tutto questo traffico e risolverlo, ma è come posso risolvere il fatto che i miei cittadini si debbano spostare. Quindi magari un pezzo uno lo fa in bici, però chi non può farlo in bici perché ha delle altre esigenze lo farà in un altro modo, però se gli metto il mezzo pubblico, quindi intanto complimenti per questo. La cosa che forse è una domanda stupida che voglio fare e perché molti automobilisti credo che se lo chiedano, è la soluzione è andare a 30 all'ora, perché sappiamo tutti che poi ci sono dei momenti dove uno dice ma qua non c'è nessuno e devo per forza andare a 30 all'ora, è una soluzione o no? Ti parla uno che non ha la patente, quindi diciamo sono super partes. No, diciamo che non è sicuramente la soluzione, perché poi in Italia le zone 30 sono solo un cartello verticale con scritto 30 all'ora. Esatto. All'estero invece vengono fatti apposta dei dissuasori, vengono messi dei dissuasori, le strade non sono perfettamente dritte, viene dedicata parte della carreggiata anche ad altri utenti della strada, perché oggi noi abbiamo la strada che occupa l'80% del nostro dello spazio pubblico, voi guardate l'80% è composto da strada e viene dedicato solo esclusivamente alla macchina. Milano sotto questo aspetto ha cominciato già da qualche anno a cambiare prospettiva, lo stanno facendo anche le città medio piccole. Non è sicuramente la soluzione, perché nello stesso momento dobbiamo capire che c'è anche il codice della strada che dà dei limiti di velocità anche consoni alla portata della strada. Quello certo. Che noi stiamo cercando di dire è che le strade a ridosso dei centri urbani devono essere, la velocità deve essere moderata proprio per questo motivo, perché sappiamo che la velocità troppo elevata causa poi incidenti, causa disagi, eccetera, eccetera. Quindi e cosa, la soluzione fa parte di un mosaico. Esatto. E nelle città dove già si sta sperimentando la zona 30, e per esempio penso a Udine, ma anche Pavia, altre città, eccetera, eccetera, quali sono i primi risultati? Avete già delle indicazioni di queste sperimentazioni che si sta facendo? Ci sono meno incidenti, per esempio? Allora, sicuramente c'è una vivibilità diversa della strada, perché poi se la strada è una strada che è particolarmente centrale al tessuto urbano, magari l'automobilista come primo effetto evita anche di transitare in questa strada se non ha davvero necessità, perché noi molto spesso vediamo che ci sono degli atteggiamenti del mobilista che lo fa per comodità o per abitudine e magari non capisce che poi quel mezzo di trasporto è invece lento e inefficiente. E quindi questo genera già delle diverse prospettive della strada, che prende una connotazione completamente diversa. La strada di scorrimento, piuttosto che di passaggio solo di autovetture, a volte si trasforma in strada residenziale, cioè dove si cominciano a vedere pedoni, dove magari si cominciano a vedere bambini con la bicicletta. Insomma, è proprio un ridisegno della qualità urbana delle nostre città. Senta, assessore, mi tolga una curiosità, perché Milano è una città nella quale questo tipo di politiche sulla mobilità, per esempio il ticket d'ingresso in città, è stato adottato da una giunta di centrodestra e poi confermato dal centrosinistra. Il club Città 30 e Lode ha una colorazione politica particolare o siete bipartisan? No. C'è dentro anche il Movimento 5 Stelle, c'è dentro anche centrodestra, c'è dentro anche Lega, c'è dentro anche PD. Ovviamente il PD è maggiormente rappresentato perché una tornata di 2 anni fa ha portato molte liste del PD, ma però non è detto che rimanga così, insomma, perché non è detto che rimanga così, ma perché giustamente siete più forti forse poi della politica, nel senso che qualunque colore abbia un comune, se fa parte del gruppo delle città 30 lode, fa parte anche magari con un altro sindaco. Allora, io dico 800 24 00 24, ascoltatori, se qualcuno ha chiamato e c'era il centralino che aveva avuto un problema tecnico, quindi può darsi che ci siano stati problemi alle linee. Da ora in poi dovremmo ripartire, quindi se volete commentare le zone a 30 km orari o giocare col personaggio della settimana, uno che ha avuto un contrasto. E dopo daremo un altro indizio. GR. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Il governo in generale, noi abbiamo accolto una richiesta del governo appoggiato dall'ONU di Tripoli di inviare un ospedale militare, che ovviamente avrà le sue protezioni, come è normale abbia un ospedale militare. Penso che questo sia un contributo tipico di quello che può fare l'Italia all'estero, e cioè aiutare i consolidamenti, anche con le proprie forze armate, i consolidamenti dei processi di pace e di stabilità. Eccoci qua, 9:13 minuti, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno, buona domenica. E questa era la voce del ministro degli esteri, Gentiloni, sulla questione della missione Ippocrate presentata questa settimana al Parlamento. Giudicate voi, missione umanitaria o, come dicono alcune delle opposizioni, missione militare? Ci sono 65 medici, 135 persone che fanno parte della logistica e 100 militari che garantiranno la sicurezza di questo ospedale vicino all'aeroporto di Misurata. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo su questo ma anche sul resto della puntata. Ci sono già in linea, abbiate pazienza, abbiamo avuto un problemino con il centralino. E cerchiamo anche un personaggio della settimana, come tutte le domeniche, un personaggio che ha una notizia legata a questa settimana, che è un po' il nostro Si può fare. Abbiamo già dato un indizio prima che ha avuto un contrasto questo personaggio, tra poco sentiamo gli ascoltatori. Dal secondo indizio? No, aspetta. Prima facciamo la prima infornata di telefonici. Telefonici, ma cattivi siamo. Sì, adesso sentiamo che li vedo già in linea belli caldi. Perfetto. In attesa. Prima però facciamo un passaggio anche a Roma. Anche a Roma sono in attesa che si completi il quadro della giunta. Manca ancora qualche tassello. Però intanto a dominare sono le polemiche tra Virginia Raggi e i giornalisti. E poi sentiamo anche le dichiarazioni di Di Maio, quella sul Venezuela e su Pinochet. Ma avvisiamo che fra poco ci sarà quindi un errore in onda, se ci sono dei bambini in onda che non imparino a memoria. Esatto, e poi Di Battista. Facciamo pari. Facciamo bene, insomma, vero? Beh, un po', devo dire. Un po' sì. Grazie. Come state? Sto bene, di lunedì mattina si sta sempre bene. Voi come state? Buongiorno. Ho visto il suo post dove parla di Pinochet in Venezuela, è un grave errore. Sì, è stato un lapsus corretto dopo 10 minuti. Ha scritto lei Pinochet in Venezuela. Mi prendo tutte le responsabilità, per carità. Come ci accorgeremo che Roma è governata dai 5 Stelle? Quando verranno affrontati e risolti i problemi dei cittadini, i principali, trasporti e rifiuti. A voglia, allora dobbiamo aspettare ancora un bel po'. Già la prima crisi è stata affrontata e Roma è più pulita oggi di come l'abbiamo trovata. 800 24 00 24, cittadini romani, se volete dire la vostra su questo, noi siamo qua. Roma è più pulita di quando sono arrivati la nuova giunta, il Movimento 5 Stelle? Chiamate. Assolutamente. Tematica dei rifiuti è lunga, noi la seguiamo da vicino. Sì, al di là della tematica dei rifiuti, sì. La tematica anche interessante del sindaco Virginia Raggi è il fatto di prendersela di nuovo con i giornalisti in un momento in cui mi sembra il Movimento 5 Stelle molto spesso attacca i giornalisti dicendo semplicemente: ah, siete gli ignoranti, siete servi del potere. Però ricordiamo anche l'utilità del giornalismo, perché proprio in questo caso in cui si fanno delle domande su quello che sta facendo Virginia, e giustamente anche scriveva un pezzo in cui diceva: attenzione, perché nel momento in cui per esempio venite espulsi dal Movimento 5 Stelle, di solito sono i giornalisti che cercano di trovare e di spiegare perché qualcuno che è stato espulso magari è stato espulso ingiustamente. Togliere un potere come quello dell'informazione non è detto che sia un buon piano. Allora, noi ci fermiamo per le informazioni sul traffico e torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora andiamo subito con Daniela che chiama da Milano. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Allora, prego. Secondo me il personaggio è Hillary Clinton, che questa settimana ha avuto questo problema polmonare, per cui ha avuto un contrasto sicuramente. Sì. Sì. La notizia c'è. Anche perché lei di contrasti ne ha tutte le settimane con Trump. Vabbè, questa settimana c'era anche di più, in effetti. Ma non è il nostro personaggio, non è il personaggio che avevamo scelto. Non è Hillary con la sua polmonite, che però sta risolvendo, e quindi è un altro, il personaggio che ha avuto il contrasto, che andiamo cercando. Virginio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Per me è Matteo Renzi alla riunione di Bratislava, perché si è un po' defilato da quello che era la Merkel e Hollande. Defilato o è stato defilato, possiamo dire? E questo è il grande dubbio, si è defilato o è stato defilato? In effetti con questa espressione qua Carlo ha centrato il punto. Punto di domanda. La notizia c'è, la notizia su Renzi c'è. È anche inutile cercarla, ce n'è quattro al giorno. Il contrasto è in atto, direi, più che c'è stato, ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Grazie mille. Grazie comunque, Virginio, perché in effetti questa è una notizia di questa settimana notevole. Stefano da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccolo qua. Io innanzitutto, chiamando da Roma, vi dico che almeno nel mio quartiere Roma è leggermente più pulita, probabilmente anche perché vivo relativamente vicino dove vive la sindaca. Quindi era una bella notizia, no. Eravamo contenti di dare una bella notizia. Ci hai messo dentro la malizia. Esatto. Io metto le mani avanti, perché poi magari altri romani diranno il contrario. Tra l'altro è una malizia di solito dei non 5 Stelle, dei 5 Stelle che di solito dicono quella zona è pulita solamente perché ci vive il politico di turno. Quindi sarebbe veramente uno scoop scoprire che solamente la zona in cui vive Virginia Raggi si è un pochino ripulita. Sarebbe importante che gli assessori vivessero noi in un quartiere diverso, così Roma va in ogni municipio. Per la viabilità, nel senso che sono d'accordissimo che bisogna fare attenzione ai 30 e lode, eccetera eccetera, ma come gli smartphone hanno reso dei guidatori più distratti, ci sono dei pedoni molto più distratti. Ci sono dei pedoni che attraversano scrivendo messaggi. È vero, c'è Pokémon. Ricordiamoci che c'è Pokémon. E quindi è giustamente. Però, Stefano, è vero, ma se, come dice l'assessore di Pavia, ci sono a Pavia ogni tre giorni c'è un investito sulle strisce pedonali. Sai, quando uno è sulle strisce pedonali, non dico che può guardare anche lo smartphone, perché non è così. Però è al sicuro, dovrebbe essere al sicuro. E poi la vittima dell'incidente tra il pedone e l'auto, lo sai anche tu qual è. Sì, ma io quello purtroppo c'è anche la credenza da parte dei pedoni che ammettendo un piede sulle strisce pedonali diventino immortali. È vero, no, questo scusa. È un grande errore. Io li chiamo gli attraversatori kamikaze che improvvisamente si mettono in mezzo alla strada e pretendono che il mondo si fermi. E io sono un guidatore molto prudente e molto tranquillo. Giusto. Però insomma, alcune volte le responsabilità vanno un pochino divise. Hai ragione, sicuramente è vero. Però se seguo il tuo ragionamento, qual è la soluzione a tutto questo? La soluzione naturalmente non esiste, ma andare più lentamente con le macchine, per esempio, visto che siamo tutti partiamo da questo presupposto, siamo tutti distratti e non riusciamo a non esserlo, e allora forse bisogna diminuire i limiti di velocità, perché andare velocemente, distrattamente con un'auto in corsa è come lanciarsi con una bomba su, capisci? No, ma assolutamente, però è anche vero che lanciarsi in mezzo alla strada dove passano delle macchine è altrettanto pericoloso. Sono d'accordo, e secondo me è anche una questione di educazione, insomma, anche perché ricordiamo tutti che se si va a 30 all'ora, che quindi è a velocità diminuita, se ti butti in mezzo alla strada, giusto semplicemente per dire tanto sono sulle strisce, ti fai male lo stesso, quindi d'accordo. Quindi propongo una patente per i pedoni e i ciclisti a Roma. La patente per tutti mi sembra troppo, però. Ma il codice della strada vale per tutti. Se io sto in mezzo alla strada devo conoscere il codice, credo, no? Direi che non posso che dire touché, essendo un pedone senza patente, hai assolutamente ragione. C'è il piccolo problemino, Stefano, c'è il piccolo fatto che se ci fossero solo pedoni in circolazione non ci sarebbero incidenti mortali, perché due pedoni che si scontrano tra di loro al massimo si fanno un bernoccolo sulla fronte. Si chiama rissa. Comunque l'argomento c'era, grazie Stefano. A proposito di Pokémon Go, che appunto crea a volte incidenti, volevo semplicemente annunciare che ho conquistato la palestra del Sole 24 Ore, che era il mio obiettivo di oggi, e durante la pausa delle 9 sono riuscito a conquistarla. Ho piazzato un mio Vaporeon, ci tenevo a dirlo. Un obiettivo degli ultimi 12 mesi, da quando ti conosco almeno. Eugenio da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora io volevo rispondere per quanto riguarda il personaggio misterioso. Sì. Siamo tutti orecchi. Allora, per me è Di Canio. Certo. Ricordiamo. Dico certo, sì, perché la notizia ce l'ho chiara, ricordacela. Allora, praticamente è stato silurato, licenziato da Sky per il tatuaggio che ha mostrato in diretta, il suo tatuaggio, il Dux. quindi è stato allontanato, praticamente è stato licenziato. Bello anche questo di come contrasto e come personaggio, anche se non era lui, no. non era di Canio. Non grazie, era lui. Eugenio. Possiamo dire anche con un po' di ipocrisia, perché questo licenziamento di Canio, perché le sue idee politiche sono note a tutti da un sacco di tempo e Sky le sapeva, e quindi nel momento è anche vero che nel momento che tu le mostri è diverso, perché possono essere un fatto privato, ma nel momento che tu decidi di andare in onda mostrando il tatuaggio, si può parlare di apologia di fascismo. Adesso Carlo, tu dai il secondo indizio, sì. Io però dico sommessamente che questo ascoltatore è quello che si è avvicinato un po' di più, posso giusto, dire? Giusto. Allora, io do il secondo indizio, il nostro personaggio, tutti lo vorrebbero come vicino di casa. 800 24 00 24. Allora diamo il benvenuto a Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto e complimenti, perché la notizia è questa: nella classifica che vale quel che vale, ma insomma ci divertiamo a commentarla. E poi TripAdvisor ormai è un gigante nel mondo per quanto riguarda le recensioni, non solo evidentemente degli alberghi e dei ristoranti, ma anche dei musei, perché siete, diciamo, il secondo museo italiano che si piazza in classifica dopo gli Uffizi. E quindi complimenti, e anche chi l'avrebbe detto, perché magari si poteva immaginare potevano esserci altri musei più con un nome più importante prima di voi. Ma soprattutto è proprio Torino che si piazza in altissima classifica. L'altra notizia. Mi scusi, prego. No, innanzitutto grazie. Vabbè, lasciatemi rispondere. Chi l'avrebbe detto? Beh, noi l'avremmo detto. Come sapete, abbiamo fatto un lavoro immenso per riaprire il museo il 1° aprile 2015, un museo completamente rinnovato, che adesso si presenta come uno dei grandi musei archeologici nel panorama internazionale. E soprattutto, io dico sempre, l'Italia e Torino hanno l'onore di avere questo museo, che è il secondo museo al mondo. Quindi per me, da direttore di questa prestigiosissima istituzione, dico, era normale che il Museo Egizio venisse riconosciuto, ma soprattutto grazie al valore della sua collezione. Adesso poi si inserisce... Sì, prego. In una città, come dicevate voi, che ha messo l'offerta culturale al centro, e devo dire che Torino si sta sempre più affermando nel panorama italiano, ma anche internazionale, come una città e una meta turistica davvero importante. Perché in effetti l'altra notizia è quella che stava dicendo Carlo, no Carlo? Cioè che la città proprio di Torino e tutti i suoi musei... È la miglior piazzata, nel senso che uno si aspetterebbe forse altre città, Firenze, Roma, Napoli, e invece Torino, sia ovviamente con l'eccellenza del Museo Egizio, ma anche col Museo Nazionale del Cinema, che è al sesto posto, e il Museo Nazionale dell'Automobile, che è al nono posto, è incredibilmente la città meglio messa. Come fate? Certo. Torino ha messo l'offerta culturale al centro della sua azione, continua a rinnovarsi, offre dei musei che hanno una programmazione variegata e un'offerta culturale molto importante per la città, e poi mi permetta di dire anche la collocazione di questi musei. Adesso ne abbiamo citati tre che sono entrati nella classifica di TripAdvisor, ma il tessuto culturale di Torino è molto più ricco, e il raggiungimento di questi musei è anche molto facile. Io dico sempre, sembra che a Torino ci sia una museo mensola, anche se non è definita come tale, una però, di musei, sì. Ma in realtà si raggiungono uno dopo l'altro a piedi, e si può davvero spaziare dall'Antico Egitto all'archeologia, ai musei reali, al Museo del Cinema, al Museo dell'Automobile, al Museo del Risorgimento, all'arte moderna e contemporanea. Quindi c'è un'offerta davvero variegata. Però ci sarà anche un tema greco di efficienza, no? Io penso, perché va bene la città con i musei ravvicinati, l'offerta culturale, ci avete lavorato nella promozione e nel curare anche le vostre mostre. Però ci fa un esempio di efficienza che lei porta, come dire, come fiore all'occhiello, perché sappiamo che invece in tanti altri musei a volte si arriva, non ci sono gli orari, non ci sono i custodi, non ci sono non c'è un'offerta adeguata, non ci sono le opere, non ci sono neanche i musei tante volte. Ci fa invece un esempio di efficienza di cui lei va fiero? Allora, lasciatemi rispondere dicendo che anzitutto questa classifica anche per me non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza, perché comunque sappiamo che invece a livello mondiale c'è ancora molto da fare e anche noi ovviamente non ci siamo classificati. Quindi io, per quanto concerne il mio museo, non penso di essere arrivato da nessuna parte, ma penso che questo sia un punto di partenza. Beh, vi posso dire quello che facciamo noi al Museo Egitto e penso che venga percepito come valido. All'interno del prezzo del biglietto, qualunque visitatore venga da noi al museo ottiene una videoguida che gli permette di visitare i quattro piani del museo accompagnato da una voce che spiega i principali reperti. Questo è stato un primo step, ma adesso vogliamo proseguire facendo un tour per famiglie. C'è la possibilità di prenotare online saltando le code. Abbiamo un'apertura al Museo Egitto di 7 giorni su 7, quindi un'offerta per tutti i turisti. Abbiamo deciso di aprire perfino lunedì mattina, cosa che per noi è molto complicata, perché quindi riduciamo al minimo i tempi che abbiamo per lavorare sulle collezioni, per offrire il meglio che possiamo al turista. Offriamo una videoguida. Complimenti. I risultati si vedono, però. I risultati si vedono. Ma giustamente lei stava ricordando che questo è un punto di partenza, anche perché sul piano mondiale, sempre rimanendo in questa classifica che vale quello che vale, l'Italia non è messa bene per niente. L'unico è gli Uffizi, che comunque restano fuori dalla top ten, che vede l'Ermitage, il Metropolitan, altri musei in testa alla classifica. Come mai noi siamo in così bassa classifica per questa speciale classifica che è TripAdvisor, ovvero gli utenti e i loro commenti? Secondo me perché ci dobbiamo aprire di più alle esigenze del nostro pubblico. E, guardi, io ritengo che, lo disse il direttore del Metropolitan Museum of Art, che nessun museo può esistere senza il tessuto sociale in cui essere inserito, quindi bisogna aprire un dialogo. Io due volte al mese faccio la cosiddetta passeggiata col direttore, si può iscrivere chiunque, vengono i turisti e passeggiano con me per il museo, è per me un momento di crescita per sentire da loro un feedback. Questo però è solo all'inizio. Ma è bellissimo, cos'è la passeggiata col direttore? Voglio venire anch'io. Tutti che le fanno domande sul museo. Chiunque può venire, basta iscriversi online, è un momento in cui il direttore per un'ora e mezzo passeggia con 30 persone che liberamente si prenotano online e ogni volta scelgo un tema diverso, racconto loro del background e loro mi danno un feedback. Beh, mi raccontano, perché mi immagino sarà anche qualche critica, tipo guardi quel quadro io l'avrei messo un po' più basso perché non si vede abbastanza, ma lo può spostare? Perché io me lo immagino un po' come il primario in ospedale che passa con dietro tutti gli studenti, il codazzo esattamente. È bello per il pubblico, ma vi devo dire che è molto bello, è bello anche per lei. Senta Greco, una delle cose che sono cambiate con nuovo ministro Franceschini, se abbiamo capito bene, è che una parte degli utili dovrebbero rimanere, se non in tutti, in alcuni dei grandi musei italiani, dei siti archeologici, dei musei, è così? Certo. Con voi come va? Parte della riforma Franceschini è stata l'autonomia dei grandi musei, quindi i musei sono stati dotati di statuto e i musei hanno un'autonomia di bilancio, per cui tutto ciò che ricavano poi possono tenerlo e reinvestirlo in attività museali, in implementazione di percorsi, in servizi per il pubblico, e questo è davvero un grande passo per migliorare quello che dobbiamo fare. Perché io torno alla domanda che lei ci faceva, mi ha fatto precedentemente. Cosa dobbiamo fare? Allora sì, aprirsi al pubblico, aprirsi all'internazionalità, essere attenti alle critiche. Nel Museo Egitto adesso stiamo facendo un questionario, prendendo come campione più di 1500 persone, chiedendo dopo la visita ciò che a loro non piace. Questo per noi è utilissimo. Io so in primis quanti problemi ci sono nel museo, ma un museo deve porsi sempre la domanda: quello che io voglio dire al mio pubblico rimane implicito oppure è percepito? Perché magari io posso aver pensato un percorso molto bello che il pubblico non ritiene tale o non riesce a capire, a percepire, perché io in maniera troppo critica ho cercato di convogliare dei messaggi. Ecco, continuare ad interrogarsi, non pensare che quello che offriamo sia al primo posto, ma sempre trovare metodi di miglioramento, e io questo lo trovo uno stimolo molto grande, quindi sono felice di che noi siamo il secondo museo a livello nazionale, ma ho come obiettivo quanto prima di entrare nella classifica mondiale. Ambisce al primo posto? Quindi gli Uffizi stiano attenti, si guardino le spalle gli Uffizi, perché giusto, bello, il museo egizio sta arrivando. Mi sta arrivando molto. Io voglio, a parte salutare e ringraziare Cristian Greco per essere stato con noi, grazie. Grazie mille anche per le belle parole, molto buona giuste. Domenica al direttore del museo egizio, però grazie, ci sono buongiorno. Anche gli altri, è giusto fare una piccola citazione, all'Accademia Fiorentina per esempio 17° posto, sono il terzo museo italiano nella classifica TripAdvisor, così come il Vaticano 19° e Galleria Borghese al 23° posto. Anche loro complimenti, perché stanno lavorando bene, così come tutti gli altri musei dove si sta lavorando bene per offrire sempre un'offerta migliore ai visitatori. C'è la pausa, mi fanno segno. 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ci ha augurato ogni bene, ogni felicità ed è stata gentilissima e dolcissima. Si festeggia con la famiglia, si festeggia con gli amici. Da adesso in poi, nero su bianco, siamo una famiglia, oltre che esserlo nella realtà come sempre. E si prosegue con i nostri progetti, con la nostra vita, come tutte le coppie che coronano il loro sogno e che dicono il loro grande e grosso sì. E questa è stata la settimana anche nella quale si è celebrato il primo matrimonio civile, la prima unione civile, non usiamo la parola matrimonio, ma poi che differenza fa? Ma diciamolo chiaramente. Attento Alessio, perché se dici che differenza fa, cosa? Scateni il Vespaio. Il Vespaio. Ovviamente sono pienamente d'accordo, ma... Erano, diciamo anche i nomi, Francisco, Raffaele Villarusso e Luca Desario, sono la prima coppia gay che si è sposata a Roma. Meglio tardi che mai, possiamo dire, meglio tardi che mai. Stavamo tutti aspettando che anche Roma celebrasse le sue prime nozze. Moltissimi comuni le hanno già celebrate, ma ben felici che finalmente anche la capitale sia arrivata. E simbolicamente possiamo dire che questo appuntamento Virginia Raggi non lo ha disatteso. No, perché ci sono altre cose che sono state disattese, per usare un eufemismo, ma poi non dite che siamo antigrillini, non è vero, perché noi il Movimento 5 Stelle lo seguiamo, le iniziative, le abbiamo promosse a Parma, raccolta rifiuti, Pizzarotti, altre storie, però non si può dire che a Roma non ci sia qualche problemino. Aspettiamo che sia completo il quadro della giunta, però siamo a metà settembre, tra un po' saremo a ottobre e le elezioni quando ci sono state... E fra pochissimo maggio, è Natale. È un attimo, che dobbiamo scartare il panettone. Antonio da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ben trovati, grazie, buongiorno. Grazie a te Antonio. Allora, la mia esperienza è duplice, perché io abito ad Anguillara Sabbazia, sì, sindaco grillino, e i miei genitori vivono a Roma. E l'indice di pulizia di una città è commisurato alla civiltà delle persone. Non solo, perché... anche all'efficienza dell'azienda che fa la raccolta rifiuti, diciamo. Perché, perfetto, no... questo per tutti coloro che in qualche modo gettano l'immondizia vicino ai cassonetti. Sì. Ma se voi girate Roma, periferia o vicino al centro, notate tante di quelle immondizie, bottiglie di plastica, opera di turisti, dei romani, degli italiani, di tutti. Io ieri stavo a Firenze per lavoro. Io ieri ho visto almeno una ventina di fiorentini che avevano il portacicche portatile e buttavano tutti quanti le cicche nel portacicche di plastica che si rimettevano in tasca. Però questo... è facile dire, Antonio, che se la città la trovi già pulita, poi è più difficile anche sporcarla. Comunque io ho chiesto di intervenire su Roma, scusate il momento di raucedine, intervenire su Roma, però non so se ho fatto bene, perché adesso si aprirà una sequela di telefonate che Roma è sporca, Roma è pulita, Roma è sporca. Perché Di Battista ha detto che Roma è già migliorata da quando c'è la giunta del Movimento 5 Stelle. Mi sembrava interessante il discorso invece della ascoltatore che diceva c'è anche una questione dei cittadini, nel senso che sbaglio? Assolutamente sì, questo è ovvio, perché se io getto l'immondizia o per terra vicino al cassonetto e il cassonetto è vuoto, o comunque distante dal cassonetto, gli operatori dell'AMA fanno una fatica immensa. Per carità, io conosco molti operatori dell'AMA, fino a qualche mese fa dicevano noi lavoriamo su 8 ore, 2 ore, perché il resto delle ore leggiamo il giornale perché non ci sono i controlli. Perfetto, perfetto. Va bene, grazie Antonio, grazie, buona giornata. Ma naturalmente c'entra anche l'educazione delle persone, questo è ovvio. Io quando vado nel mio palazzo guardo sempre nell'umido e trovo sempre roba che non ci dovrebbe stare. E ma perché? No, come, non è che non si capisce questa cosa, non è difficile da capire che devi mettere il sacchettino. No, per me è difficile, io ho molte volte molte dubbi. Ma tu guardi nell'umido perché hai fame, guardi nell'umido del tuo condominio? Io guardo, una cosa, non ci posso fare niente. Non guardate nell'umido. Rosa dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccola allora qua. Per me il personaggio è D'Alema e Giachetti da Mentana. Ah, cioè un personaggio doppio in questo caso, duplice, duplice personaggio. E anche in un luogo. Però che noi siccome cerchiamo un personaggio, oddio, a volte abbiamo anche dato... Abbiamo anche personaggi non umani, anche coppie. Quindi accettiamo la risposta così doppia? Accettiamo assolutamente la risposta così doppia, perché sappiamo, hanno litigato, addirittura se non ricordo male, Mentana ha detto siete come Sandra e Raimondo, perché poi è stato quello il momento bello del litigio fra D'Alema e Giachetti, ma non sono la nostra coppia, la nostra coppia. Grazie Rosa per aver grazie chiamato mille. E buona per domenica. Aver ricordato anche questa notizia. Mariangela da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io buongiorno, volevo richiamare l'attenzione su un'altra una novità. Sì? Cioè la sporcizia creata dalla differenziata. Praticamente io abito a Mostacciano ed era un quartiere gestibile abbastanza isolato, piccolino. È completamente cambiato da quando ci è stata imposta la differenziata, perché non tutti i condomini hanno una stanza nella quale conservare i piccoli secchi della spazzatura. E quindi che succede? E quindi succede che i condomini affilano questi secchi sul marciapiede che prima veniva utilizzato per camminare. Ma no, c'è, no, scusa, no, Mariangela, no, una domanda, ma c'è il porta a porta lì in quella zona? Porta a porta, sì. Sì, quindi il giorno porta a porta, funziona così, il giorno mettiamo il mercoledì che c'è da ritirare l'umido, sul marciapiede ci sono tutti i sacchi con l'umido, questo succede, no? Col porta a porta. E per lei questo è un disagio? No, è un disagio, per questo motivo non sarebbe un disagio, però insomma io continuo a sentire che il 20 di agosto il nostro sindaco ha fatto pulire tutte le strade, a me non risulta, anche perché questo... Ma però Mariangela, sono due cose diverse, scusa. È diventato un complicare la situazione, perché praticamente questi piccoli secchi che non vengono mai puliti non ospitano tutto quello che le persone alla fine... Cioè ci finisce dentro di tutto? No, i cittadini sono corretti, però... Un piccolo secchio che deve servire per mesi e non viene ritirato, un condominio, a un certo punto cosa succede? Le persone per non tenersi questi sacchetti dentro casa all'infinito li cominciano a mettere intorno. Ma scusa, perché all'infinito? Mi scusi, se c'è la raccolta differenziata non passano, è vero che viene ritirato. Non passano. Non è questo doveva dirlo però, no, perché non l'avevamo capito Mariangela. Non passano è un problema. Io metto fuori di casa l'umido e non passano a ritirarlo, poi l'umido marcisce, passano gli animali e ricordiamo che anche sopra. Questi piccoli secchi vengono riempiti con facilità e allora si comincia a mettere il sacchetto fuori dal secchio con il coperchio aperto, con gli animali che vanno lì. Va bene, è vero una cosa, grazie Mariangela, perché poi insomma, bisogna affidarci alle parole degli ascoltatori, non abbiamo la controprova, non abbiamo la foto, però è vero che il porta a porta è molto complesso. Sono d'accordissimo, poi per me è complicatissimo. Una cosa va detta, il fatto che la complicazione non vuol dire che sia negativa, nel senso è più complesso perché abbiamo deciso, è chiaro a tutti, che prendere tutto e buttare dentro in un buco è molto più facile però ma questo l'abbiamo fatto per centinaia di anni e abbiamo capito che è una boiata e quindi tocca fare in un altro modo che è più complesso, è molto più complesso, però in teoria dovrebbe essere molto più vantaggioso. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra poco e andiamo a Taormina a trovare un'amica. fare. Cronache da un paese migliore. Che meraviglia sono i grillini. Lì a Roma stanno facendo un capolavoro. Assessori che vanno, assessori che vengono, dirigenti che si dimettono, avvocati che cercano assessori, assessori che si devono cercare un avvocato. Sono passati da onestà, onestà a ndosta, ndosta. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive al 3422386666 da Roma, Nicola, su WhatsApp, e dice: gli operatori ama sempre al bar, la gente paga una tassa immondizia devastante, i cassonetti sono lerci, la differenziata va in giorni a caso, non in giorni alterni, e a Roma, Roma è piena di topi per la differenziata che viene lasciata per strada. Quindi questo è un messaggio che conferma il discorso che faceva l'ascoltatrice prima, cioè che ci sono delle zone di Roma dove evidentemente il porta a porta non funziona come dovrebbe. E va bene. Abbiamo Margherita da Sesto San Giovanni, un'ascoltatrice. Buongiorno, benvenuta. Cioè, va bene, va male, perché se è così a Roma. Però, naturalmente, quando leggiamo questi messaggi, non vogliamo smentire quello che ha detto Di Battista, che Roma è più pulita di prima, perché Roma era sporca anche prima. Sono casi isolati, sono casi singoli. Una teoria generale su Roma non la vogliamo fare. Vogliamo solo dare voce agli ascoltatori. Margherita, buongiorno. No. Prego. Buongiorno. Allora, secondo me il personaggio è Riccardo Meggiorini, che ieri o l'altro ieri, mi pare, di notte ha sentito urlare una ragazza per strada e si è precipitato giù e ha aggredito l'aggressore e lo ha messo in fuga, o almeno ha aspettato la polizia che lo... Complimenti, è per lei questo applauso. Grazie. E anche per Meggiorini, calciatore del Chievo, Meggiorini. Ricordiamolo per chi non segue il calcio e non segue magari il Chievo. Insomma, ha detto: non sono un eroe, però noi abbiamo usato come indizio tutti lo vorrebbero come vicino di casa, perché in effetti fa comodo. È bella così. Anche la dinamica del salvataggio, perché pare che lui sia uscito, ha detto alla propria fidanzata chiami i carabinieri, poi è uscito e al malvivente ha dato una spallata e poi l'ha tipo, bloccato, esatto. Quindi no pugni, giustamente con quello che sa fare lui, un po' più da stopper, diciamo. E poi è rimasto lì in attesa che arrivassero, insomma, i carabinieri. Quindi bel gesto questo di Meggiorini, era un bel si può fare. Cara Margherita, porti a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Grazie per aver giocato con noi, complimenti. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona domenica. Torna a trovarci Antonella Ferrara da Taormina, della libreria Bucolo. Ciao Antonella, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E tra l'altro una delle animatrici di Tao Book, il festival che si è concluso ieri, vero? Sì, proprio ieri sera abbiamo chiuso una settimana di incontri fittissima e siamo veramente felici perché è stata un'edizione straordinaria, davvero. Ancora una volta il festival di Taormina, dal punto di vista del librario, è andato bene, Tao Book. Con ospiti pazzeschi. Diciamo subito che per chi ti conosce, per chi conosce la tua storia, anche tramite Radio 24 la sa. Chi non la sa, la storia è questa. Lei è titolare dell'unica libreria di Taormina che, ahimè, a meno che tu non ci dia buone notizie, sta per chiudere. No, purtroppo non ci sono buone notizie, perché alla gioia appunto del successo del festival fa da contraltare un'amarezza incredibile, perché il 30 settembre chiudiamo definitivamente, almeno per ora, la libreria. Ma com'è possibile che il festival non abbia dato una mano? Ci siamo sentiti, scusa, abbiamo tutti la voce un po' tristolina, perché la notizia è terribile, nel senso che non è che possiamo stare qua a gioire per un festival venuto benissimo quando fra 10 giorni chiude la libreria. Che cioè, Taormina è un presidio più importante di un festival che dura solamente una settimana, importantissimo, piuttosto che una libreria che è un presidio che dura 365 giorni all'anno ed è fondamentale. In una città pazzesca come Taormina. Ma sì, infatti siamo veramente senza parole, anche perché in effetti il festival ha creato una serie di movimenti attorno a questa situazione. Dico, c'erano esponenti del mondo dell'editoria, della politica, che hanno preso parte a dibattiti in cui si è parlato chiaramente anche di questa chiusura. tutti hanno fatto appello alle istituzioni, però è un rimbalzo perché il nazionale fa appello alle istituzioni locali, il locale fa appello alle istituzioni nazionali, quindi in realtà si rimbalzano la palla senza arrivare però a una proposta concreta. E l'anno prossimo si fa il Festival degli Appelli. Io spero che in qualche modo durante i mesi invernali si riesca a trovare una soluzione. L'abbiamo detto anche l'altra volta, insomma, che il comune di Taormina non trovi un piccolo spazio, non da regalare, ma da dare con un affitto ragionevole ad Antonella Ferrara e ai suoi collaboratori per portare avanti l'unica libreria di una città pazzesca come Taormina, non riusciamo a capirlo. Forse siamo noi che non capiamo, ci manca qualcosa. Il locale c'è, in realtà ci sarebbero i motivi, anche la soluzione potrebbe trovarsi. In realtà è una scelta politica quella di decidere di non favorire, a detta loro, un'attività commerciale come le altre. Certo. Quindi loro non però ricordiamo anche una cosa, lo dico io, beh, posso essere naturalmente smentito da tutti, giustamente, ma insomma una libreria non è un'attività commerciale come un'altra, è anche un posto dove ci si va, si parla, ci si incontra, è un presidio, ha un valore, tutti lo sanno, vediamo nei nostri quartieri chiudere negozi, non solo le librerie, anche altri negozi, e ci piange il cuore, quindi... una mano in qualche modo il comune senza regalare niente, perché lei chiede di pagare un affitto, però potrebbe darla. Sfido chiunque a fare questo lavoro, cioè, ovvero se questa possibilità fosse data ad altre persone del luogo, non so quante persone lo farebbero, perché comunque è una missione, i margini di redditività sono molto bassi, è un lavoro duro, cioè voglio dire. Sono bassi e tendono allo zero, soprattutto visto tutto quello che sta accadendo. Comunque un grande in bocca al lupo e ci risentiremo sicuramente, perché ci piace tenervi aggiornati, ascoltatori, su questa vicenda che riguarda Taormina, ma è un po' riguarda tutti noi. Grazie Antonella, ciao, in bocca al lupo. È tutto per oggi, come sempre un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta, Peter Bescapè in regia. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti, l'Alessio Maurizio.